semplicemente. Semplicemente. Eh sì, semplicemente insieme a me. Oggi fino alle 17 siete rigorosamente in diretta su CRM più Radio. Anche oggi un altro pomeriggio da trascorrere insieme a me, sempre con tanta buona musica, tante novità, notizie, gossip e tanto altro. Oggi venerdì, finalmente si conclude la settimana, così poi c'è il weekend, ci si riposa, ci si rilassa per poi ricaricarsi, rigenerarsi, per poi ritornare nuovamente al lavoro per un'altra dura, lunga settimana. E allora vi do subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste: il 335-56-37251. Vi ricordo ancora che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmepiradio.it. Ancora vi ricordo il nostro numero fisso 0921 92 32 92, e ancora la nostra pagina Facebook. E se non siete ancora tra i nostri contatti, semplicissimo, entrate su Facebook, scrivete CRMP Radio e cliccate sulla nostra pagina Mi piace, così anche voi, insomma, entrerete a far parte della nostra famiglia, dove potete postare, commentare, messaggiare, fare la vostra richiesta anche da Facebook. Allora, 15:15 in orario, dai, sono sempre in orario, quasi. Che dite, cominciamo? Sì, dai, cominciamo subito allora. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. CRM di Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono che devi proprio farti fuori, se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sfeggia! costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i sogni sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sai già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere solo la metà. È la vita che non spendi, che interessi avrà. Stare in righe, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere, solo la metà è la vita che non spendi, che interessi avrà. Abbiamo cominciato alla grande, no? Direi proprio di sì. E parliamo proprio della grande Liga, Ligabue, che torna all'Arena di Verona dopo 5 anni, il 16, 17, 19, 20 settembre. Ancora c'è un po' di tempo, però si sta preparando, quindi con dei concerti speciali dell'evento nominato Arena 2013. Il nuovo disco di inediti a cui Liga sta lavorando in studio di registrazione uscirà invece a novembre. Inoltre lunedì 3 giugno Ligabue ritirerà ai Win Music Awards, insieme agli altri artisti protagonisti di Italia Loves Emilia, il premio per il quadruplo CD più doppio DVD Italia Loves Emilia il concerto. Quindi grande Liga dopo 5 anni, beh, ritorna alla grande, quindi con questa serie di concerti che partirà appunto da settembre, dal 16 di settembre. Quindi per tutti i fan, tutti gli appassionati, segnatevi queste date perché sono assolutissimamente da non perdere. E noi continuiamo, siete sempre con me fino alle 17, lo ricordo naturalmente a chi si fosse messo all'ascolto solo in questo istante. Burning bright, just to vanish in the dark. I've held hope in my two hands that there would be another chance to find a kingdom. I believe in my heart. 'Cause underneath the good, there's something greater than you know. When you're oh,

che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine... Quando sorridi, questo è il nuovo di Neffa. E su questa canzone saluto Federico che ce l'ha richiesta sempre dal nostro sito, che vi ricordo è www.crmhappyradio.it. Beh, parliamo di sorrisi, quindi alla base poi naturalmente ci deve essere un bel sorriso, quindi anche una buona cura dei denti. Quindi parliamo di denti. Beh, se vogliamo avere dei denti più sani, secondo uno studio, beh, dobbiamo cenare senza carboidrati, quindi una cena leggera, limitare i carboidrati nel pasto serale, appunto per mantenere denti e gengive sane. Quindi via libera invece a insalate di verdure miste, pesce, carne bianca e formaggi. Quindi la prima ricerca italiana sul sondaggio del glucosio salivare dimostra che pur lavandosi i denti dopo cena, il glucosio di notte tende a concentrarsi nella saliva, quindi specie se si esagera con i dolci alla sera. Quindi gli esperti consigliano, quindi per mantenere la bocca sana, non a cibi ricchi di zucchero, quindi con un alto indice glicemico come pane, pasta e riso, ma a una cena, quindi sia una cena leggera che prediliga verdura, frutta, cibi proteici come pesce, appunto carne bianca come detto poco fa, e formaggi leggeri. Quindi queste sono le accortezze da fare per mantenere quindi i denti sani e poi quindi naturalmente per avere anche un bel sorrisone. Quindi ascoltiamo i consigli degli esperti, che voglio dire, ne sanno più di noi, ovviamente. E noi continuiamo, andiamo avanti sempre con la bella musica. Siete sempre in diretta su CRM Happy Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia. I got enough on my mind, but when she pulls me by the hair, she hasn't much to hold on to. She keeping count on her hand, 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my dad, so now I head back up the steps, thinking about where I've been. I mean, the sun was never like this. I wanna feel with the season. I guess it makes sense, 'cause my life's become as rapid as a night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed. Hold you like I used to, you know that I am home. So darling, if you love me, would you let me know? Or go on, go on, go on. If you were thinking that the worst is yet to come, why am I the one always packing up my stuff? For once, for once, for once, I get the feeling that I'm right where I belong. About it, I'll move back down. Go on, go on, if you was thinking that's the worst. In diretta su CRM di Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto. Di quando andavo in vacanza, solo un vecchio ricordo abbandonato a sé. E se non porto pazienza, mi ritrovo da solo con la notte più lunga che c'è. Apro una pagina nuova per dare un freno a questa Italia che avanza. È un periodo cupo, molte chiacchiere ma poca sostanza. Mi viene incontro la vita e la ricevo sconvolta dalla vita che già c'era in me. E mi ritrovo basito in questo mondo di matti, che per matti una cura non c'è. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come arricchire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, che sai farmi ritornare in me. Oh, oh. Mi viene incontro la strada, dopo 20 anni che ci stavo correndo. Cosa vuoi da me? M'ha domandato quasi quasi ridendo. Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà. Adesso che sono grande faccio ancora domande, non si ferma la curiosità. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come riempire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, che sai farmi ritornare in me. E allora fa che sparisca la nebbia e la luna tornerà a brillare. Fa che ritorni il sorriso nei pomeriggi da dimenticare. Fa che ritorni il lavoro e l'entusiasmo dei giorni migliori. E poi fa che ritorni la gioia e che si riaccendano tutti i motori. Baciami e portami a ballare, tu che sai come cambiare i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. Con Baciami e portami a ballare, anche questo un nuovo singolo. E su questa canzone saluto Luisa che ce l'ha richiesta sempre qui dal nostro sito, che ormai credo sapete già a memoria, ma io ve lo ricordo: il www.crmhappyradio.it. Adesso parliamo di fumo, sì, di sigarette. C'è una notizia un po' così, un po' strana, perché una donna praticamente californiana, improvvisamente, così per smettere di fumare, decide di prendere a schiaffi un poliziotto che incontra per strada. Oddio, ma che notizia è? Beh, voleva smettere, la signora, la 31enne, sperava di essere arrestata e trattenuta in prigione, dove non avrebbe potuto accendersi una sigaretta. Cioè, praticamente così prende a schiaffi questo poliziotto. La gente ha raccontato che la donna lo ha fermato, quindi lo ha schiaffeggiata, e la donna è stata quindi immediatamente poi ammanettata. Ha immediatamente quindi spiegato le sue motivazioni e voleva sfruttare appunto le leggi antifumo in vigore nelle carceri californiane. Inoltre ha spiegato che il suo non è stato un gesto improvviso, ma un piano ponderato. Era infatti tutto il giorno che aspettava un poliziotto in uniforme da aggredire. La donna contava sul fatto che la detenzione per il suo reato non sarebbe stata eccessivamente lunga, ma sufficiente a farle perdere l'abitudine, quindi il vizio del fumo. La prima parte del piano, diciamo che ha funzionato. La Lopez, questa signora appunto, è stata infatti condannata a 63 giorni di reclusione. Però adesso sarà da vedere se non ricomincerà a fumare una volta scarcerata. Cioè, Dai, da pazzi. Per smettere di fumare praticamente si fa arrestare. Io dico, ma si può? No, sono tutte matte. matte. Queste sono notizie comunque tutte vere, sembrano strane, però sono vere. Non c'è. Bisogna farsi arrestare per smettere di fumare, non credo proprio, cioè buona forza di volontà. Poi piano piano tutto viene, insomma. Mannaggia. I get tired and upset, and I'm trying to care a little less. When I'm too cool, I only get depressed. I was taught to dodge those issues, I was told. Don't worry, there's no doubt, there's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say. Going down, you got a penny, no how. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. But I pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Pretending do for me. Don't fight it, just let it be. Now your desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Tu che mi dai vita completamente, calmami di corpo, pretendi me. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel a love rising from deep inside of me up to ecstasy. Fino all'estasi up to ecstasy. When I hear the ocean calling and I feel my spirit falling, I remember old Sorrento, where I fell in love with you. Love and romance in the garden. Yes, it's the immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute. Let's have some fun. When I hear the ocean calling. I've been around the globe, ripping and riding, dipping and dabbing, running and gunning, slipping and sliding. Go ahead, try him. You can't. He works too hard to deny. Take me to Sorrento. Kiss me. Sexy people all around the world. The night is young. Let's have some fun. Sexy people all around the world. The night is young. Let's have some fun. I eat them, global dominance, known through all the seven continents. I flirt with the earth, she loves when I whisper in her ear and pull up a skirt. What a dirty girl. Take me to Sorrento, kiss me. Wow, sexy people all around the world. The night is young, let's have some fun. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. La metà di una bugia non fa la verità. Quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro,

present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Sempre rigorosamente in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, insieme a Jerry sino alle 17. E oggi mi è venuto a trovare un amico che vado subito a salutare. Ciao Giuseppe. Ciao Jerry. Come stai? Tutto bene, tu? A posto, non ci lamentiamo. Meglio così. E allora, che mi racconti, come va lo stage che per il momento stai facendo con la nostra carissima Mary Catalano, che salutiamo naturalmente. Ciao Mary, un bacione. Ciao Mary. Grande. Come tutto va? Sta andando benissimo e sto apprendendo tantissime cose da Mary. E siamo quasi addirittura d'arrivo ormai dello stage. Chissà poi cosa vedremo. Succederà, ma vedremo. Lo scopriremo solo vivendo. Bene, bene, ti ho ascoltato, devo dire che sei bravo. Grazie. E quindi poi Mary è una grande. Eh sì, facciamo sì, una sì. Sviolinata a Mary. Se mi ascolta. No, è brava Mary. Sì. Sai Giuseppe, una bella notizia per chi sì. ama il cioccolato, quindi anche per me, che io sono proprio un amante del cioccolato. Beh, sembra che mangiare cioccolato tutti i giorni aiuta a dimagrire. Ora scopriremo. Diciamo che i sogni sono desideri di felicità, così come quindi questa notizia che il cioccolato, se mangiato quotidianamente, aiuta a perdere peso. Sembra un controsenso, ma in realtà degli studi scientifici lo confermano. Addirittura. Uno studio appunto dell'Università della California ha scoperto che mangiare cioccolato quotidianamente non solo combatte l'ipertensione arteriosa grazie agli antiossidanti che inibiscono l'effetto negativo dei radicali liberi, ma aiuta anche a perdere peso. Quindi le persone che consumano tutti i giorni sono infatti generalmente più magre di chi se lo proibisce, nonostante però sia molto calorico. Il cioccolato infatti contiene dei grassi che favoriscono la perdita di peso, un controsenso che però viene accolto con una buona notizia, quindi ottima notizia soprattutto per le golose come me e poi naturalmente per tutti coloro che vogliono restare in linea. Però in particolar modo il cioccolato fondente aiuta l'organismo a combattere il colesterolo ed abbassare la pressione. Grazie quindi a queste proprietà il nostro corpo riuscirebbe a sfruttare i nutrienti presenti, mantenendosi quindi più snello. Oltre a ciò viene anche contrastato l'invecchiamento della pelle, che devo dire importante anche questo. Quindi un elisir dolcissimo e buonissimo da gli esperti raccomandano quindi di consumare 2 volte alla settimana, quindi però senza esagerare, tipo che ne so, consigliano almeno un quadratino, due quadratini. Il problema è che poi appena cominci uno tira l'altro, poi di uno quadratino tira l'altro, cioè bisogna sì mangiarlo però senza esagerare. Cioè io se lo metto davanti, cioè lo faccio fuori una stecca di cioccolata al giro di 30 secondi così. Esatto, sono un po' golosa. Sì, la prossima volta che vieni a trovarmi, Giuseppe, sì, cioccolato, portami della anziché buona, il caffè, il cioccolato, okay. Della buona cioccolata, va bene. Va bene. Allora noi continuiamo adesso ancora con la buona musica. Sono le 16:10, ancora una bella oretta piena, quasi, da trascorrere insieme a me. Ciao Simone, che saluto. Sì, ok, dai, continuiamo che è meglio. Vai, vai, vai, vai. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia. come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere, ti porto via con me. In questa notte fantastica, ti porto via con me. Ribalteremo il mondo, oh. Una discata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro una macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me. In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me. In questa notte fantastica, ti porto via con me. Ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Scivola via, non resterò qui a guardare, ho già iniziato a viaggiare. Ti porto via con me, ti porto via con me, oh, ti porto via con me. Ribalteremo il mondo, ti porto via con me, ti porto via con me. Con me su questa canzone saluto Gaetano. Ciao Gaetano, che ce l'ha richiesta naturalmente dal nostro sito, che vi ricordo che è il www.crmhappyradio.it. Giuseppe, allora? Sì, abbiamo un'altra notizia, Jerry. Sì, la vuoi dare tu, Giuseppe? Va bene, come vuoi. Vai, vai, vai. Allora, è successo che un uomo si è amputato un piede per non andare al lavoro. Ecco, visto che il lavoro, voglio dire, ce n'è tanto oggi, no? Dico... Se l'è mantenuto bello stretto. Ecco, sì, bravo. Quindi dicono che certo dopo le ferie spesso è difficile trovare la voglia per tornare al lavoro e si sarebbe disposti a qualunque cosa per rimanere in vacanza. Ma non fatevi venire strane idee da questa storia. Direi. Ebbene, un 56enne austriaco dell'area della Stiria doveva iniziare un nuovo lavoro ed aveva appuntamento all'ufficio collocamento per una visita medica prima per avere il benestare all'assunzione. L'uomo disoccupato sembra avesse vissuto l'ultimo periodo godendo dell'assegno di disoccupazione e che a tutti i costi non volesse perderlo. Certo, ovvio. L'uomo, quindi, per essere sicuro di non passare la visita medica, ha deciso una soluzione drammatica. Ha preso una sega elettrica e si è amputato il piede sinistro appena sopra la caviglia. È matto questo. Ma di tanto. Non c'è, è fuori proprio, è fuori come un balcone. Ma non ha finito, perché per essere sicuro al 100% che il piede non gli sarebbe stato riattaccato e che quindi non avrebbe potuto passare la visita medica neppure in futuro, ha gettato il piede nel forno. Quindi l'uomo poi ha chiamato i soccorsi a questo punto. Direi, ci stava morendo. Dico, quantomeno mi salvo la vita, però il piede lo lascio fuori. E quando è arrivata l'ambulanza, gli infermieri non credevano ai loro occhi, ovviamente. L'uomo stava rischiando di morire dissanguato, certo. Ma il pronto intervento dei soccorsi gli hanno salvato la vita. Ed è stato però impossibile, ovviamente, riattaccare il piede che ormai era arrostito. Era arrostito nel forno. Ma si può, dico, si può fare una cosa del genere? Dico, se non vuoi lavorare, stai a casa. C'è gente, insomma, che ha più voglia di lavorare. Certo. Quindi, visto che per il momento il periodo è un po' così, di quello crisi. Che è. E questo invece, per non andare, decide proprio di amputarsi il piede. Cioè, proprio sì. Non sta bene questo. Non sta bene. Ricorda un po' i film di Soul Enigmista, di sì. Quando per salvarsi la vita bisognava tagliarsi una parte del corpo. Bene. Vabbè. Intanto sono tutte notizie vere. Notizie vere. Sono strane, un po', sembrano. Sono fuori proprio dalla. Però c'è gente che è matta, è pazza. Tanto. Cioè, da rinchiudere il manicomio proprio e buttare via le chiavi. E vabbè, dai, capita, cose che capitano. E noi andiamo avanti sempre con la bella musica, sempre rigorosamente in diretta, sempre all'interno di Semplicemente Insieme, insieme a Jerry, insieme a Giuseppe. You ain't giving your girl what she needs.

sempre in diretta insieme a Jerry, insieme a Giuseppe e oggi anche a Simone che, ahimè, me lo devo sopportare. Vi ricordo ancora una volta i numeri per le vostre dediche: il 3355637251, lo 0921923292 e ancora il nostro sito www.crmhappyradio.it. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. I could fly away, leave it all behind. Escape through the window of my mind, but I would never leave behind. I've seen the place where the broken people are. I wanna know never leave you behind. Insieme a voi sino alle 17, ancora un altro quarto d'ora da trascorrere insieme. Beh, parliamo adesso di lavoro, sì, parliamo di lavoro. Lavoro che, come dicevamo, Giuseppe, c'è, non c'è, più sì. Che non c'è, diciamo. Non c'è proprio. E c'è chi non vuole andare, quindi, come dicevamo poco fa, si ampuda un piede. C'è invece chi un po' se lo inventa. Per esempio abbiamo un signore che per lavoro, pensa a te, salta sui materassi. Eh sì, vabbè, non ci credo. Beh sì, invece è vero. Un lavoro decisamente insolito che appunto fa sorridere, ci fa sorridere. Però questo signore appunto è una cosa, per lui è una cosa molto molto seria. Infatti il suo lavoro è quello di collaudare materassi fatti a mano, per cercare quindi che all'interno che ci sia un po', che ci siano delle imperfezioni. Un lavoro quindi delicato, anche perché si tratta di materassi che il cliente paga piuttosto profumatamente e quindi pretende la perfezione. Ed i piedi di questo signore austriaco, guidati dalla sua esperienza, sanno riconoscere le imperfezioni meglio delle macchine automatiche. Addirittura. Hai capito? Quindi talmente tanta la sua esperienza ormai, quindi è vero, un vero e proprio lavoro per questo nostro amico che, insomma, visto che il lavoro, te l'ho detto, l'abbiamo detto, insomma, si è inventato questa... Interessante però, dai. Questo nuovo lavoro. Questo Beh. Nuovo lavoro, dai. Si può fare. Vabbè, sì, dai. Collaudatore di materassi, così si chiama appunto. Un lavoro decisamente insolito, però se frutta va bene, perché no? Giusto? Direi. Facciamo. Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino porta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene? Di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. Dritto allo stomaco, tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena, per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in uno scherzo a carnevale, la curiosità di non capire. Prendimi, comprami con quegli occhi da diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in un regalo di Natale. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. I had to phone someone so I picked up. Da trascorrere insieme a me, se abbiamo il tempo di un'altra canzone e poi dovremmo salutarci. Eh sì, però tranquilli, come sempre torno poi lunedì. Allora ancora qualche minuto e poi ritorniamo per i saluti finali. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se ora signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Le mode, i tempi galoppano tra i voli. senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora, la solitudine suona. E questa era l'ultima canzone in programma per oggi. Su questa canzone saluto Rosy, che ce l'ha richiesta dal nostro sito www.crmpiredo.it. La saluto caramente. Ciao Rosy, come stai? Tutto a posto? Fatti sentire sempre, perché aspetto con ansia sempre i tuoi messaggi, che sono così, devo dire, molto molto carini. Bene, ciao Rosy, un bacione, buona giornata, buon weekend soprattutto. Allora Giuseppe, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, scusa. Cioè. Giuseppe, che succede? No, poi ne parliamo. Sei scoppiato. Poi ne parliamo. Vuoi salutare anche tu la nostra amica Rosy? Sì, salutiamo Rosy. Che è la nostra fidata radioascoltatrice che ci segue. Ciao Rosy. Ci segue sempre. Me soprattutto, segue sempre Semplicemente Insieme, quindi la saluto per quello. Un caro saluto Rosy. Ricordiamo l'appuntamento insieme a te, insieme a me, sì, naturalmente, martedì. Sì, siamo martedì, sempre dalle 10 alle 12 con Déjà Vu. Stasera invece avremo anche... Stasera alle 21, Rock Revolution insieme a Filippo e a Simone Brancato, quindi non perdete quest'altro appuntamento, quindi ospiti e tanto tanto tanto altro. Io ricordo l'appuntamento insieme a me lunedì, sempre a partire dalle 15 alle 17, quindi non vi resta che augurare un buon fine settimana, buon proseguimento con la musica di CRM, e noi naturalmente ci risentiamo lunedì. Ciao Giuseppe, grazie per essere stato qui. Grazie a te e buon fine settimana. Grazie, ciao Giuseppe. Mi raccomando, come dico sempre io, fate i bravi, soprattutto tu Rosy, fai la brava. Ciao ciao. Semplicemente.